Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Abbiamo Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, e Laura Vanossi in redazione. In studio qui con me la dottoressa Giovanna Gatti, senologa allo IEO. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno. E in linea il dottor Massimiliano D'Aiuto, chirurgo oncologo del reparto di senologia del Pascale di Napoli. Buongiorno anche a lei, dottore. Buongiorno, buongiorno. Oggi torniamo a parlare di tumore al seno. È un argomento molto delicato, per alcuni da evitare, da tacere, per non urtare la sensibilità di chi l'ha incontrato, per non mettere paura a chi l'ha conosciuto indirettamente o ne ha solo sentito parlare. Io credo invece che di tumore si debba parlare, perché l'informazione è in parte già guarigione. Dottoressa Gatti, lei che dice? L'informazione è parte integrante della prevenzione, ma anche della terapia. Quindi, facendo informazione, l'informazione giusta, possiamo aiutare le donne a capire quali esami fare e quando, e quindi eventualmente avere una diagnosi di tumore quando il tumore è ancora talmente piccolo da non avere creato un danno. Ma possiamo anche aiutare le donne a capire dove andare, a chi rivolgersi quando il problema viene effettivamente diagnosticato, ma anche possiamo informare loro di quali diritti abbiano quando sono malate. Quindi l'informazione ha un ruolo fondamentale in tutte le fasi della salute, ma anche della malattia. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde sempre attivo, così come quello per inviare i vostri messaggi, 349 238 6666. Dottor D'Aiuto, sembra strano, a proposito di informazione, se ne parla molto, eppure ci sono ancora molti luoghi comuni e false credenze riguardo al tumore al seno, e alcune di queste rappresentano veramente un pericolo. Vogliamo sgombrare il campo? Chiedo aiuto anche alla dottoressa Gatti. Raccontateci quello che le vostre pazienti, le donne che incontrate vi raccontano e che utilizzano magari queste scuse per evitare di farsi controllare, per allontanare, scotomizzare il problema. Ad esempio, dottor D'Aiuto, si dice che chi ha il seno piccolo è meno a rischio. Ne dico una io per iniziare questa carrellata di luoghi comuni. Esatto, e non è vero, perché le dimensioni del seno non influiscono sul rischio personale che ciascuna donna ha di contrarre una malattia come il tumore al seno. Quindi le dimensioni del seno non influiscono sul rischio. Dottoressa Gatti, tocca a lei. Un'altra è la familiarità, che è oggettivamente un fattore di rischio, ma conta per il 5%. Ancora sentiamo donne che non vanno a farsi controlli perché ritengono di non avere familiarità per tumore al seno. In realtà tutte le donne hanno un rischio consistente di tumore al seno, e quindi tutte le donne, senza star lì a contare quante parenti abbiano avuto in famiglia, devono sottoporsi a controlli. Dottor D'Aiuto, le passo la palla per un altro luogo sì. comune. D'accordo, un altro dei luoghi comuni è che il seno che fa male è un seno che è a malattia. Molte donne vengono a controllo perché hanno dolore al seno, si chiama massalgia o massodinia, questi due sintomi, e in realtà poi non c'è niente di importante, è soltanto una banalissima infiammazione o congestione del seno. È un'occasione per fare dei controlli, però per le donne che sono in ascolto, se il seno fa male non deve essere questo un motivo d'allarme, può essere un'occasione per sentire il senologo, questo sì. Dottoressa Gatti? Due elementi, il reggiseno col ferretto oppure gli antitraspiranti, quindi quei deodoranti che sono antitraspiranti. Sono leggende metropolitane, anche abbastanza scorrette tutto sommato, quelle che dicono che il ferretto del reggiseno e gli antitraspiranti provochino tumore al seno. Non è assolutamente vero, non è mai stato dimostrato, ma nemmeno esiste il dubbio, non è vero. Dottor D'Aiuto, pillola anticoncezionale, tumore al seno, anche qua ci sono delle relazioni ipotetiche supposte da molte, sì, è vero, da molte donne. Esatto, è stato scritto e detto molto sulla pillola e sul tumore, il rischio di tumore al seno. In realtà non esistono dati conclusivi in una direzione del genere, quindi non è il caso di allarmare. È ovvio che qualsiasi cura, qualsiasi trattamento estroprogestinico, quindi la pillola, va comunque iniziata in accordo con il ginecologo e sotto controllo sia ginecologico che senologico. Altro punto sempre nodale invece, però, che merita un trattamento diverso, sono le stimolazioni ormonali a cui le donne talvolta si sottopongono per avere gravidanze. In questo caso non sempre i ginecologi che praticano queste stimolazioni hanno in abitudine controllare anche lo stato di salute del seno. Ecco, solo in questo caso è veramente importante che se si ricorre a queste terapie il seno venga studiato adeguatamente per vedere poi i cambiamenti che queste terapie determinano sul seno. Dottoressa Gatti, noi sosteniamo sempre che la prevenzione non ha età. Ci sono tante donne invece che pensano che il tumore in un certo senso, passato una data età, vada in pensione, non possa più manifestarsi e non si controllano. Questo è sbagliato, perché in realtà il rischio di tumore aumenta sempre con l'età. Però vorrei anche difendere queste donne che non si sottopongono più a controlli. In realtà sbagliano perché vedono che per esempio gli screening non le chiamano più oltre una certa età, quindi pensano naturalmente che il tumore non sia più uno dei loro rischi. In realtà gli screening non chiamano più le donne dopo una certa età per ragioni economiche e organizzative. La verità è che il rischio di tumore c'è e aumenta con l'età. Nel nostro paese, a proposito di età, vige ancora la cultura dei 50 anni di età per l'avvio dello screening al seno, così come la cadenza della mammografia ogni 2 anni. Ma il tumore esiste anche prima. Dottor D'Aiuto, al Pascale di Napoli lavorate proprio in questa direzione. Educate le giovani donne alla cultura della prevenzione, anche in età, mi passi il termine, non sospetta. Esatto. Noi pensiamo che, diversamente da quello che è previsto dal sistema sanitario nazionale, sia molto importante avviare la donna, quando il rischio è veramente molto basso, alla cultura della prevenzione, alla conoscenza del proprio seno, alla possibilità di effettuare dei controlli qualora ve ne fosse necessità, di caratterizzare il proprio rischio. E tutto questo è oggetto di uno studio, di un progetto che abbiamo in essere a Pascale, che prevede però anche momenti di cura nel caso in cui invece poi venga riscontrato nell'ambito di questi controlli una lesione che è meritevole di approfondimento ulteriore. Arrivano numerosi messaggi, voglio leggervene alcuni. Mi è arrivata una mail dove parlano di questo tumore difficilmente riconoscibile che si presenta come un brufolo tra capezzolo e aureola. Mail affidabile, dottoressa Gatti. Ma è una situazione rarissima e comunque questo non è un segno di tumore, basta una visita medica per capire se si tratti o meno di un rarissimo, e lo sottolineo, rarissimo tumore. Il capezzolo, variazioni dell'aureola del capezzolo, sì. Perdite possono invece essere segnali che la donna deve tenere in grande considerazione per recarsi a fare una visita, anche se ha fatto un controllo di recente? Certo, ogni alterazione del seno, quindi anche del capezzolo, le secrezioni, la fuoriuscita di liquido, la retrazione della pelle, il cambiamento di colore, vanno segnalati al medico di medicina generale. Quindi certamente le donne devono sottoporsi ai controlli annuali, ma se notano qualche cosa di strano, hanno il medico di medicina generale, che è un ottimo riferimento e che può aiutarle con una visita a capire. Intanto saluto Giampaolo da Rovigo. Giampaolo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi lasci leggere altri 2 messaggi. Ho 42 anni, con mamma morta per tumore al seno. È giusto che il mio medico insista per farmi fare la mammografia e l'eco mammaria ogni 4-5 anni? Sono preoccupata. Dottor D'Aiuto. Ma allora, andrebbe sicuramente caratterizzato il rischio soggettivo, come diceva la dottoressa Gatti. In realtà un caso in famiglia non deve creare allarmismo. È anche vero che però pensare di proporre dei controlli senologici ogni 4 anni non può essere la soluzione. Occorre che questa ragazza, questa donna, si venga presa in cura dal punto di vista proprio della possibilità di controlli, abbia una struttura o un referente clinico con il quale controllarsi senza ansia una volta l'anno. Parleremo di questa struttura, di questo referente clinico, rapidamente, perché sennò Giampaolo aspetta troppo. 43 anni, l'anno scorso, oltre all'ecografia, ho fatto anche una mammografia. Tutto ok. Devo ripetere entrambe gli esami una volta all'anno? Ghiandola, tessuto denso. Ringrazio le ascoltatrici che mi mandano questi sms, perché proprio in questa puntata noi vogliamo parlare di prevenzione, ma rispondere ai dubbi, alle domande più frequenti strumenti che a volte non abbiamo così coraggio di rivolgere al nostro medico di base, che invece è una figura chiave che dovremmo consultare più spesso. Dottoressa Gatti. L'ecografia sì, una volta l'anno. La mammografia sicuramente è stata già indicata come cadenza nel referto. In ogni caso, se il seno è denso, può essere ripetuta dopo 2 anni. Allora Giampaolo, buongiorno a lei, mi scusi, ma dovevo cogliere l'onda degli sms riguardo ai controlli. Ci racconti? Io ho avuto mia moglie che dopo una visita è stata diagnosticata che aveva 2 tumori ai seni. Allora siamo andati su una clinica e lì sono stati esportati tutti e 2 i seni e messo il silicone all'interno e è rimasto solamente il capezzolo, i 2 capezzoli. E questo è successo nel 92. Da allora mia moglie non ha più voluto che la portassi a fare una visita, perché ha paura, ha sofferto un po' una cosa o l'altra, cioè non vuole più. Vorrei sapere che rischi ci sono dopo 18 anni. Sì, grazie Giampaolo. Dottor D'Aiuto. Ma i rischi dopo 18 anni da un intervento del genere sono veramente bassissimi. Continuo a ripetere, perché può sembrare ripetitivo, ma in realtà è importante avere un punto di riferimento, che in questo caso è il senologo che ha preso in cura la signora tempo fa, e poter fare i controlli, perché questo è l'unica cosa che ci garantisce che qualsiasi cosa accada venga scoperta in tempo. Però la moglie del nostro Giampaolo non vuole più avere a che fare con medici e controlli, questo forse perché quando è stata operata non c'era la cultura ancora anche tra i medici della presa in carico. Sto dicendo una cosa forte, non voglio dire che i medici non si occupavano sicuramente delle pazienti, ma adesso negli ultimi anni si è sviluppata proprio un'attenzione particolare anche sul profilo psicologico per accompagnare le pazienti, le donne che hanno avuto un tumore anche dopo la guarigione. Dottoressa Gatti, difficile convincere una donna che dice non ne voglio più sapere, però è importante. No, ma si può fare, bisogna che abbiamo il coraggio noi medici di ammettere che si può piacere a una donna e non a un'altra, quindi donna intesa come persona che viene a chiederci un aiuto o un controllo. Allora l'equipe è lì per questo. Io so benissimo che piaccio tra virgolette a un certo numero di donne e non piaccio ad altre. Quelle altre donne andranno da un mio collega e devo avere l'onestà intellettuale di ammetterlo. L'equipe esiste per questo. In ogni caso, la cultura medica è anche un po' andata avanti nel rapporto con i pazienti. Abbiamo capito finalmente che il vero motore della proposta di terapia, ma anche della proposta di controlli, è una buona relazione con medico i pazienti. Paziente. E quindi devo dire che molto difficilmente adesso si trova la donna che realmente non si sottopone più ai controlli. Abbiamo Salvatore, ci chiama da Pavia. Buongiorno Salvatore. Buongiorno. Mi ha anticipato prima quel signore di prima, che è più o meno la stessa situazione. Mia moglie è stata operata 20 anni fa e per adesso sembra che stia bene, però non so se ci sono ancora dei rischi o qualcosa del genere. E non vuole più farsi controllare, Salvatore, sua moglie, non ha più fatto controlli. No, ma addirittura non ha neanche finito la chemio, perché aveva 8 cicli e ne ha fatto solo 4, perché stava malissimo. E poi non so se per opera divina, visto che è andata la Madonna dei fatti, ma non lo so. Non ha avuto più problemi, però... Però certo, Salvatore, ha fatto bene a chiamarci. Dottoressa Gatti, cosa si può dire a Salvatore in modo che lui possa aiutare sua moglie a superare questo? Ma guardi, il discorso è semplice. Una donna guarita eventualmente da un tumore al seno resta una donna normale, con alcuni rischi per il proprio futuro, come tutte le donne. Altre. Quindi non c'è ragione di smettere i controlli. Se la signora, come io immagino, dopo 20 anni è guarita dal precedente tumore, è una donna sana che una volta all'anno dovrebbe farsi un controllo da donna sana. A proposito di controlli, allora voi avete più volte parlato, sia il dottor D'Aiuto che la dottoressa Gatti, di figure di riferimento. Molte donne scoprono di avere qualcosa che non va al seno, facendosi la doccia o con l'autopalpazione, che la dottoressa Gatti poi ci spiegherà ancora, perché sono sicura che servirà a molte donne all'ascolto. Oppure durante un esame di controllo. Qual è il passo successivo, dottoressa Gatti? Perché la paura, già l'idea di no, affrontare questo problema spiazza. Bisogna sapersi muovere, da chi ci si rivolge? Quando c'è il dubbio o addirittura c'è stata la diagnosi, allora si va dal senologo, quindi da colui o colei che si occupa di chirurgia senologica. Attenzione, perché senologo vuol dire chirurgo che lavora in un'equipe senologica, quindi si va in un centro dove esista un'equipe multispecialistica che si occupa di tumore al seno. E allora da lì in realtà c'è la figura del senologo che di solito è di riferimento, ma non significa che esista un singolo. Esiste l'equipe multidisciplinare che si occupa di senologia e che quindi prende in carico la persona dal punto di vista della chirurgia, dell'oncologia medica, della radioterapia, ma anche della psicologia. Non dimentichiamo per esempio tutti gli aspetti legati al personale infermieristico. Ci sono gli infermieri specializzati e deputati a seguire persone con tumore al seno, e allora il referente diventa un'equipe multidisciplinare. E qui realmente la donna non si sente più abbandonata, perché ogni esigenza trova una risposta a seconda della specializzazione. Noi stiamo insistendo sulla prevenzione, sui controlli. Voglio leggervi due sms. Il primo arriva da Luca, che ci scrive: una Cochrane Review ha rilevato l'assenza di benefici della mammografia con potenziali danni da overdiagnosi. No all'arroganza della medicina preventiva. Dottor D'Aiuto. Allora, penso che questo sia un messaggio che vada un attimino rivisto. Sì. La mammografia ha permesso lo screening mammografico hanno permesso di salvare la vita davvero a tante donne. È un test diagnostico che va utilizzato nell'ambito di un percorso preciso che è a tutela della donna. È ovvio che un uso smodato della diagnostica tutta può portare ad eccessivi allarmismi, però nei centri di screening dove c'è personale specialistico che lavora proprio su questo, l'obiettivo non è certamente abusare della tecnologia, ma è raggiungere una diagnosi tempestiva. Quindi di arroganza non ne vediamo. Andrei da Daniela, che ci scrive: ho 44 anni, da 8 faccio controllo mammo più eco, vivo a Genova e in 8 anni fare il controllo è diventato impossibile. 2 anni di attesa con eco 6 mesi prima della mamma. Mai visto, altro che prevenire, ci scrive Daniela. Le liste d'attesa, dottoressa Gatti, io dico sempre sì, che sappiamo che dobbiamo farle, prenotiamole. Ci sono donne che prenotano la tinta dal parrucchiere per avere quel parrucchiere lì piuttosto che un altro. Dal dentista prenotiamo la visita per l'igiene. Quando Io anch'io sono arrabbiata sulle liste d'attesa, sono arrabbiata, sono lunghe. E quando uno vuole farsi controllare, vede che i mesi passano, non arriva mai il tuo, ti viene. Però questo è quanto al momento abbiamo a disposizione. Sì. Non è un motivo per dire: bene, allora va tutto. Che cosa possiamo fare noi, oltre che lamentarci, arrabbiarci e dire non va bene nulla? Dottoressa Gatti, prima dei mercati. Possiamo fare due cose: organizzarci sapendo che il problema non è solo a Genova, ma è su tutto il territorio nazionale, e quindi mettere in agenda e prenotare gli esami con un anticipo quasi assurdo, mi rendo conto, ma vero, la stessa cosa faccio anch'io. E mi ci arrabbio comunque. L'altra cosa è che le donne si mettano un pochino insieme e facciano gruppo, in modo da portare la propria voce laddove si può decidere di snellire la situazione. Quindi io vedo con molto favore le associazioni di donne che portano la voce delle donne per ottenere diritti sulla salute. Quindi qualcosa possiamo fare. La signora ha ragione, abbiamo ragione anche noi che ci arrabbiamo quando le liste d'attesa sono lunghe, però intanto dobbiamo fare di necessità virtù e nella nostra vita quotidiana non rinunciare al controllo organizzandoci meglio. E poi cerchiamo di fare gruppo e di dire delle cose. Allora, noi dobbiamo andare ai mercati. Io intanto voglio dare, è stata qua con noi in silenzio Laura. Ciao Laura. Buongiorno a tutti. Laura è venuta qua in studio, in trasmissione con noi, per raccontare la sua storia. Laura è una donna giovane, a 40 anni. 41 settembre. 41 settembre, quindi non è ancora 40. 40, sì. È stata operata di tumore al seno. Sì, lo scorso anno. Ha un bambino di 4 anni. 4 anni e mezzo, sì. È qua per raccontarci la sua storia. Eccoci, siamo tornati insieme. Parola d'ordine, informazione, per prevenire, per fare prevenzione, per arrivare ad una diagnosi rapidamente, e questo cambia davvero la storia del tumore al seno. Sappiamo che i casi aumentano, dottoressa Gatti. I casi stanno leggermente aumentando, però la mortalità sta diminuendo molto. Mi spiace usare questa parola, ma è ciò che dobbiamo usare. In realtà il fatto che la mammografia serva è indicato chiaramente dalla riduzione della morte per tumore al seno, e quella è documentata, è scientifica. Guariscono molte più donne. Maria Rosa ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno a lei. Buongiorno. Grazie. Maria Rosa, io volevo brevemente portare la mia esperienza. Io sono stata operata nel 98, sì. E visto che parlate di prevenzione, io devo insomma, il fatto di essere potuta essere operata e guarita da questo problema, proprio per la grande campagna che ricordo venne fatta a livello anche di prevenzione personale, di controllo del seno. E io avevo imparato dalle divulgazioni, dalle pubblicazioni, come fare un controllo, certamente nell'ambito delle mie capacità e possibilità, però io scoprì dopo 8 mesi che ho avuto il mio bimbo, a febbraio del 98, questa ghiandolina, questa molto mobile tra l'altro, tra le mie dita, nel quadrante interno superiore del seno sinistro, e avendo letto che molto mobile non era una cosa, non doveva essere una cosa particolarmente seria, decise però comunque di andare dal senologo, e invece scoprì che era gli accertamenti fatti, scoprì che invece era un cancro al seno, quindi venne sottoposta immediatamente all'operazione, alla quadrantectomia, quindi tutta la chemioterapia, radioterapia necessaria. E quindi quello che posso dire alle donne, di avere assolutamente cura, controllo anche personale, di seguire gli screening che vengono proposti. E poi una cosa che mi sento di dire di solito quando si viene sull'argomento, insomma, sì, che vale comunque la pena di andare, di non aver paura, perché se si va a chiedere, se non è nulla, si dorme meglio, si dorme fa 4 guanciali, perché comunque il dubbio e la paura rimane. Se è qualcosa invece di più serio, lo si affronta subito, lo si affronta con energia, e poi si può risolvere, ecco. Grazie. Quindi, Maria Rosa. La mia esperienza. Grazie Maria Rosa, grazie davvero. Vorrei prendere proprio spunto dal messaggio di Maria Rosa per raccontare la storia di Laura. Tu come hai scoperto di avere un problema? L'ho scoperto lo scorso anno con una banale ecografia al seno di controllo. L'anno prima ho fatto la stessa ecografia, non risultava niente, e l'anno scorso invece hanno visto questo nodulino. L'apparenza doveva essere una cosa molto semplice, risolvibile, quasi togliere una cista. In realtà poi è stato un pochino più complesso. Però è passato un anno, ho finito le terapie a dicembre, poi all'intervento è seguita chemioterapia, radioterapia, e adesso sto seguendo le terapie ormonali, un ciclo di 5 anni, però insomma sto bene, superato. Senti Laura, tu hai un bambino piccolo. Sì, Leonardo. E sempre, ci sono tante donne che anche la nostra ascoltatrice, no, raccontava questa confrontarsi con il tumore al seno e avere un bambino piccolo a casa. È la vita, è la tua ragione di vita, e ti sembra di avere in corpo qualcosa che invece la vita può rubartela. Si sono scritti libri, si sono fatti convegni su cosa dire ai bambini, se dirlo, quali parole utilizzarle. Tu come sei riuscita a restare mamma, e che mamma sei stata per il tuo bambino, dovendo affrontare una prova così difficile? Certo. Ma in realtà questo è un atteggiamento che sia io e mio marito abbiamo avuto fin da quando Leonardo è nato, di raccontargli la vita, quindi qualsiasi cosa accada, bella o brutta, nel giusto modo, per l'amor del cielo, però raccontargli le cose. Quindi era inevitabile che dovesse sapere che la mamma non stava bene, perché tanto i bambini lo sentono e lo vedono. però una... Leonardo mi ha insegnato tanto, perché la chiave di lettura dei bambini è veramente geniale. Abbiamo sdrammatizzato tanto, tanti momenti, quindi certe cose che per me sembravano dolorose magari ai suoi occhi, tipo porto l'esempio sempre che tutti fanno della paradossale della caduta dei capelli, no? Alla fine uno sta lottando per la vita, poi gli cade il primo capello e va in crisi. In realtà mio figlio mi ha molto preso in giro insieme anche a mio marito e c'è stata questa storiella che racconto, per cui in realtà mio marito si è rasato prima di me, poi il bambino ha visto lui che si era rasato, quindi anche lui ha voluto, anch'io voglio, e a quel punto mancava la mamma. E se posso permettermi di dare un consiglio, visto che per fortuna o per sfortuna oggi si può sapere con precisione chirurgica quando cadono i capelli, tagliateveli, perché comunque è molto... Io pensavo di essere preparata, razionalmente lo ero, però alla fine la caduta fa impressione, perché comunque la sensazione è proprio che... vedi davanti a te la malattia. Allora a quel punto perdere dei capelli lunghi è un dolore, avere un centimetro di peluria è assolutamente diverso, quindi se posso dare questo consiglio. Laura, abbiamo parlato di tuo figlio, molte unioni vanno in crisi, la figura del compagno, del marito che ci sta accanto è fondamentale. La coppia, no, affronta una nuova sfida. Tu hai già anticipato, già tuo marito si è rasato prima che... Quindi, come si vive una situazione di questo tipo in coppia? Una coppia giovane con un bambino piccolo, quindi nel pieno della vita, no? Con tante cose da fare, tanti progetti, tante... Ma io ci ho pensato spesso. Questa esperienza mi ha fatto capire che sono sempre più convinta che è molto più difficile per le persone che ci stanno vicino vivere un'esperienza simile, perché la persona che in prima persona vive il dolore, il male, il tumore, vive, conosce se stesso, conosce i propri limiti, le proprie potenzialità, la propria energia. Chi ti ha al fianco ti può solo stare al fianco, che non è facile. Quindi mio marito è stato molto bravo e ha usato una chiave per me fondamentale, che è l'ironia, sdrammatizzare molte situazioni, e questo è veramente fondamentale, e bisogna guardare oltre sempre. Dottoressa Gatti. Io voglio leggere un SMS che ho ricevuto. Ho due amici, si chiamano Stefano e Cristina, e Stefano mi ha scritto: un giorno mi sono innamorato di una donna, a lei mancava un seno. Avevo colto il suo imbarazzo per questa cosa, le ho ripetuto «ma io ti amo» e lei era ancora insicura. Allora le ho detto «non hai capito, io amo te, ti amerei anche se tu fossi un uomo». Era per dire che sono innamorato di lei, della persona lei. Amavo il suo ginocchio perché era il suo e non ce n'erano altri al mondo, quindi amo il suo seno così com'è perché è suo. 800 24 00 24, in linea con noi abbiamo il professor Alberto Luini. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. No, lei mi salva dalla commozione, perché con lei entro in sala operatoria. Il professor Luini è professore di chirurgia all'Università di Milano e direttore della sonologia dell'OIEO. Professore, sappiamo che ci sono tumori e tumori, alcuni più cattivi, più aggressivi di altri. Quando la donna entra in sala operatoria, il chirurgo ha già chiaro il quadro della situazione, professore? Ma direi che oggi nel 99%, per non dire nel 100% dei casi, direi di sì, perché come tutti sappiamo abbiamo delle indagini diagnostiche molto accurate e molto precise, e quindi quando noi portiamo una paziente in sala operatoria oggi non lasciamo l'intervento al caso, ma abbiamo già quasi pianificato tutto e spesso sappiamo già in anticipo anche la diagnosi istologica, perché esiste la possibilità di fare dei prelievi sul nodulo prima dell'intervento. Questo è molto importante secondo noi per due ragioni. La prima è che la paziente arrivi in sala operatoria maggiormente informata, anche più serena, La seconda è che il chirurgo ha la possibilità chiaramente di pianificare l'intervento, che oggi è molto articolato, perché sappiamo che la chirurgia si associano varie branche, parliamo della medicina nucleare per l'esame del linfonodo sentinella, o della radioterapia per la radioterapia intraoperatoria, o della chirurgia plastica per interventi di ricostruzione correttivi. Quindi è estremamente importante pianificare tutti questi ruoli prima di entrare in sala operatoria. Secondo aspetto, che secondo noi è importante e non va trascurato, riguarda il problema anche delle liste di attesa, perché oggi spesso le liste di attesa hanno bisogno di essere maggiormente razionalizzate, e la possibilità di fare delle indagini diagnostiche nell'intervallo che segue alla visita ambulatoriale rispetto al ricovero consente di pianificare con maggiore attenzione l'intervento, il che si ripercuote anche nell'organizzazione degli interventi, che in questo modo possono essere pianificati anche meglio. Professor Luini, grazie per essere stato con noi. Io spero di sentirla presto, e intanto noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Professore, buona giornata, grazie. Grazie a voi, buongiorno. E siamo tornati insieme. Laura, tu sei in attesa dell'intervento ricostruttivo, esatto. Giusto? Stai facendo le cure ormonali. Esattamente. Come stai e come sei cambiata? Che hai l'idea di avere superato, hai accantonato la malattia e stai affrontando una nuova sfida, oppure ti senti proprio quasi alla fine di un percorso? Allora, non è accantonare, non è forse il termine giusto, nel senso che comunque sono stata malata, sono stata operata, mi è stato tolto tutto, e quindi per me quella fase è superata. Sto vivendo un'altra fase, ecco, diciamo che in questo anno ho vissuto tante piccole fasi, e mi permetto di dare un altro consiglio, che è un consiglio secondo me di vita, cioè comunque ogni passo per passo, una cosa alla volta, concentrarsi da quando lo scopri, quando prendi coscienza, affronti l'intervento, in modo che la propria persona sia pronta a superare il tutto, perché ci vuole una grande forza. Prima io ho parlato della mia famiglia, sono fortunata, però ci sono tante persone sole. Ed è importante anche, ci sono delle cose, dei passi che devi comunque far da solo, e di questo di qua non si scappa, assolutamente certa, sì. Dottor D'Aiuto, ascoltavo con molto interesse, perché credo che realmente riconosco la storia nella storia di Laura, in realtà riconosco un pochettino la storia di tanti pazienti che tratto anche io. Noi in istituto abbiamo voluto una figura professionale, che è quella del caregiver, un termine tecnico, che in realtà è una persona che si prende cura anche di quelli che possono essere gli aspetti psicologici, e di preparare il caregiver, che sarebbe la persona che poi sarà più vicino alla paziente. Di solito è il marito, può essere un figlio nel caso di pazienti un po' più anziano, può essere il fratello o la sorella, e viene identificata nel gruppo familiare. Questo perché non sempre poi le storie sono così positive, ricche di positività. Ce lo dicevamo, a volte accade ci sono anche delle esperienze negative. Preparare chi deve stare vicino alla donna che in quel momento si sta confrontando con il tumore del seno è qualcosa che può servire, è un patrimonio di cui si può arricchire il familiare. Questo da un lato. Dall'altro mi rendo conto che metabolizzare l'accaduto, soprattutto quando poi tutto questo ci accade rapidamente, in questo caso mi rivolgo alle donne che hanno il tumore al seno, è un processo lungo talvolta può richiedere anche non soltanto l'affetto di chi che è vicino alla donna, ma anche proprio l'aiuto e il supporto da parte di uno psicologo, che dovrebbe essere inserito all'interno di un'equipe. Abbiamo parlato di chemioterapia. Laura ci ha detto come ha affrontato, no? La perdita dei capelli. Chemio per molti vuole dire soprattutto questo. Qualche cosa si sta facendo, la ricerca sta investendo per arrivare ad una chemio, alla formulazione di farmaci, di molecole. Dottoressa Gatti, mi aiuti, mi verrebbe da dire più attenti, ma sbaglierei, nel senso meno invasivi, meno, con meno effetti collaterali, possiamo utilizzare questo termine. Sì, voglio andare cauta, perché ma la cautela è necessaria, perché in realtà non stiamo parlando di esatto di ogni vitamine. Volta che viene pubblicizzato anche giustamente un farmaco tra virgolette miracoloso perché apparentemente privo di effetti collaterali, non si rende giustizia a tutte le persone che in realtà hanno bisogno di altri farmaci perché quelli sono necessari. In realtà il meccanismo d'azione del chemioterapico in sé crea dei problemi perché va a interferire anche con la crescita dei peli e dei capelli, per esempio. Quindi non è tanto semplice. Sicuramente la ricerca va verso farmaci meno pesanti per la qualità di vita. Non siamo però ancora arrivati a questo. Ma dove stiamo andando? Lo chiedo al dottor Giuseppe Frasci, oncologo medico del Pascale di Napoli. Dottor Frasci, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Ma guardi, io credo che sia opportuno sgomberare subito il campo da un equivoco, no? Da un luogo comune, che tutto ciò che è meglio è ancora da venire e tutto ciò che era peggio è passato. Sì. Nel senso che forse i nostri radioascoltatori non sanno che ci sono delle chemioterapie antiche come il CMF che avevano un impatto alopecizzante molto basso. Lei deve sapere che questo CMF, che data oltre 30 anni, era stato considerato negli ultimi due decenni come un trattamento chemioterapico non adeguato. Ebbene, la ricerca quindi è andata avanti e ha scoperto che in alcune categorie di pazienti il CMF è altrettanto, se non più, adeguato di schemi chemioterapici più aggressivi e soprattutto alopecizzanti. Ecco, quindi dottor Frasci, lei mi porta a dire che, dottoressa Gatti, mi confermi, che anche per la chemioterapia si sta lavorando, ma deve essere proprio su misura del paziente, da paziente a paziente. Sì, questo selezionando la chemioterapia, quelle che abbiamo, dice giustamente il dottor Frasci, noi siamo abituati sempre a dire verrà meglio. Anche al momento quello che abbiamo oggi a disposizione permette di misurare, no? Di sfruttare al meglio questi farmaci a misura di paziente, dottoressa Gatti. Adesso si fa già il meglio assoluto che si può. È chiaro che nessuno oncologo, scusate, ma si diverte a far perdere i capelli alle donne. Questo è ovvio. Ogni volta che si può viene prescritto uno schema di chemioterapia non alopecizzante, quindi che non fa cadere i capelli. Non sempre in possibile. Alcuni casi purtroppo non si può scegliere. Allora, io devo salutarvi perché siamo quasi in dirittura d'arrivo, ho un minuto proprio per chiudere, Carmelo Lauricella me lo sta sottolineando bene. Allora, io vorrei che ciascuno di voi che siete intervenuti in questa trasmissione chiudesse con proprio come una parola, che può essere forza, speranza, prevenzione, coraggio, umorismo, proprio una parola, e inizierei dal dottor D'Aiuto. Dottore? La mia parola è determinazione, bisogna essere tutti insieme determinati affinché accadano quei cambiamenti che speriamo per migliorare sempre di più il percorso di cura delle donne. Dottor Frasci, una parola sola. Me la permette in latino? Certo. Fortiter in re, suaviter in modo, più forti nella sostanza, più dolci nella modalità. Dottoressa Gatti? Quattro parole, amore per la vita. Laura. Accidenti, era esattamente la stessa cosa, non è la cosa più semplice, amore per la vita, è una. Grazie per essere stati con noi, ci sentiamo domani. Essere e benessere.